Allora, pensando a questo incontro, avremmo immaginato una cosa di questo tipo, vediamo se funziona. Noi dedicheremmo la prima parte di questo incontro a confrontarci un po' sull'importanza di riuscire a fare buone domande prima che cercare buone risposte. Perché pensiamo che la ricerca delle risposte sia sopravvalutata rispetto alla nostra capacità di fare buone domande, e quindi vorremmo confrontarci con voi rispetto a questo tema. Nella peggiore delle ipotesi, speriamo di riuscire a condividere con voi uno strumento che vi possa comunque permettere, se oggi non ci dovessero essere grandi risposte, comunque di avere la capacità di riuscire a fare ottime domande. Quindi questo vorremmo proporvelo come prima parte del nostro confronto. La seconda parte, dopo aver lavorato sulle domande, potrebbe essere di condividere qualcosa legato alla nostra esperienza. Quindi sia da parte di Arvaia che da parte di Maxey ci può essere qualche elemento, in pratica i nostri migliori errori, per aiutarvi a apprendere qualcosa dagli errori degli altri, mantenendo come terza area quella della possibilità di un confronto su qualunque cosa abbiamo voglia di affrontare insieme. Può andare un'organizzazione di questo tipo? Sì, va bene. Ok, e di solito voi siete anche abituati a fare, immagino, una pausa a metà per ossigenarvi, o siete degli staccanovisti che vanno avanti fino alle 6-5 imperterriti? Lo vedremo anche strada facendo, dopo la prima parte. Ecco, mi suggerivano di anticipare che noi con la morte nel cuore, la 6-5, vi salutiamo e dobbiamo andare pian piano in stazione, quindi sull'orario di fine siamo abbastanza vincolati. Dobbiamo anche riprendere quel pezzettino lì. Ok, allora proviamo a condividere con voi uno strumento che, rispetto alla nostra esperienza, ci sta dando grande soddisfazione, che è questo: non pensare che fare domande è una... diciamo strumento di potere enorme, molto sottovalutato. Fare domande non è sovrapponibile a ottenere informazioni, non sono la stessa cosa. Fare domande è molto di più che ottenere informazioni, o almeno provate a prendere in considerazione questa ipotesi, che possa essere così. È diverso da semplicemente ottenere informazioni. Per ottenere informazioni uno può anche non essere bravissimo a fare domande, va a cercare, legge, ottenere informazioni. Quello che forse potrebbe essere più interessante, perché ottenere informazioni, diciamo, è relativamente semplice, le domande potrebbero darci un'altra possibilità molto più raffinata, che è quella di riuscire a scovare le nostre premesse implicite, che non diciamo perché sono implicite. E quindi noi ci mettiamo assieme, facciamo Mondeggi, facciamo la MAG, facciamo Arvaia, ma probabilmente diamo significati diversi alle stesse parole. Per cui se parliamo di sostenibilità, chissà cosa vuol dire. Allora, se impariamo a fare domande, può darsi che non solo teniamo le informazioni, quelle le troviamo, ma soprattutto che abbiamo l'opportunità di lavorare sulle nostre, non so se premesse implicite vi piace, però c'è anche chi li chiama pregiudizi, cose in cui noi ci crediamo così tanto che le diamo per scontate. Non le mettiamo minimamente in discussione che a Mondeggi per forza si fa così, così, così, per forza che la Maxi fa così, così, così. C'è tutta una serie di robe che non vale neanche la pena parlarle, perché è evidente che sono così. Quindi chiamiamole premesse implicite. o qualunque cosa in cui noi crediamo a prescindere. Quando si fanno delle domande, si può lavorare su questo. Invece se leggiamo dei libri o cerchiamo delle informazioni, noi questo proprio è per questo che è molto potente chi fa la domanda. Si può lavorare imparando però a fare le domande, perché ci sono delle domande che proprio sono solo informative, sono un pochettino... Ci sono delle domande invece che possono aiutarci a capire cosa, in cosa noi crediamo e cosa viene molto prima di quell'argomento di cui stiamo trattando. Per cui se adesso in una mezz'oretta proviamo a divertirci un po' e vedere cosa succede se abbiamo voglia di imparare a fare delle domande, vediamo se salta fuori qualcosa di interessante rispetto alle credenze, alle premesse implicite che noi abbiamo per fare fondamentalmente poi due cose. Perché mai dovrebbe essere interessante non solo avere informazioni, ma anche capire le premesse implicite che stanno dietro a tutti questi grandi temi di cui comunque parleremo. La prima cosa è esserne consapevoli. Ma noi siamo consapevoli? Ci mettiamo assieme, pensiamo che tutto vada bene, poi non è così facile che vada bene. Forse perché il nostro livello di consapevolezza di quello che per noi è scontato è un po' bassino. E allora essere un po' più consapevoli non guasta. Ma addirittura, se abbiamo voglia di essere un po' più consapevoli, possiamo fare un'altra cosa, che è quello di andare oltre. Ah, sono consapevole di questa cosa, posso scegliere di andare oltre le mie premesse implicite. E dopo vediamo un po', eh? Si può andare oltre? Forse sì, si può anche andare oltre. Non è necessario replicare quello che ho sempre immaginato, ho sempre fatto, ho sempre pensato che fosse il modo giusto per applicare, creare la sostenibilità di Mondeggi. Fino ad oggi ho immaginato delle cose, ho pensato e ritenevo che quella fosse una cosa saggia, mi sono accorto che si appoggia su alcuni miei presupposti, li vedo e sono anche disponibile a vedere se c'è la possibilità di fare anche qualcosa che ad esempio nessuno ha mai fatto, neanche la Mag l'ha fatto, neanche Arvaia l'ha fatto. Lo facciamo noi per la prima volta. Bene, ottimo. Quindi andare oltre. Le proprie premesse implicite. Vi potrebbe interessare questo gioco? Di solito può anche darsi che l'obiettivo specifico non venga raggiunto, ma portare a casa una cosa così può essere giocato su mille altri obiettivi. Non raggiunto un obiettivo, ce ne saranno degli altri. Se abbiamo una buona dotazione di strumenti, non è poi che voglio dire, un obiettivo è importante, ma c'è un secondo obiettivo, un terzo obiettivo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante nel imparare a fare domande. Avanziamo? Sì? No? Sì. Ok, proviamo. Allora, facciamo qualche esempio. Se incominciaste a chiedervi come facciamo a Mondeggi a prendere decisioni efficaci, una domanda di questo tipo ha al proprio interno una premessa implicita, quella legata al fatto che le decisioni sono uno strumento che può essere efficace, giusto? Quindi voi fate le vostre belle assemblee, prendete una decisione e per il fatto di aver preso la decisione ritenete che comunque sia una decisione efficace. Ora, non è l'unico modo di affrontare questo aspetto. Se ad esempio vi dicessi che questa domanda potrebbe essere sostituita da un'altra domanda, è ad esempio non tanto domandarsi come prendere a Mondeggi decisioni efficaci, ma come a Mondeggi creare accordi durevoli. È un'altra domanda. Non so se sentite la differenza. Se adesso ci domandiamo come si fa in MagSafe a prendere decisioni efficaci, o se ci domandiamo ma come però si fa in un gruppo così diversificato a fare degli accordi che durino, sono due domande completamente diverse che si appoggiano su due premesse implicite completamente diverse. Una cosa che mi verrebbe da dire è, voi come la vedete il rapporto possibile fra una decisione e un accordo? Perché lo sapete che ci sono persone che le usano come sinonimi. Cioè, o abbiamo preso una decisione o abbiamo fatto un accordo, lo usano indifferentemente, pensando che siano la stessa cosa. Ecco, questo apre un attimo lo sguardo. Che domande ci dobbiamo fare a Mondeggi per stare insieme per i prossimi 100 anni? Quella di come si fa a prendere buone decisioni, o come si fa a prendere grande Francesco, come si fa a imparare a fare dei buoni accordi? Non sono la stessa cosa. E allora uno dice, beh, allora fermiamoci, e a partire da questa domanda mi faccio delle domande sulle premesse che ci sono prima. Che differenza c'è? E qua non apro il capitolo di che differenza c'è, perché so che molti di voi lo sanno, chi non lo sa può essere interessato a saperlo e può essere una cosa interessante. Però capite che differenza c'è? Ma voi come prendete le decisioni, Mago? Guarda, la maggioranza delle decisioni sono inutili perché non vengono poi sostenute. La maggioranza degli accordi, forse ne creiamo pochi di accordi, prendiamo tante decisioni, le nostre riunioni sono piene di decisioni, la maggioranza delle quali inutili. E fare accordi è tutto un altro mestiere, quindi potrebbe essere interessante e incominciare a scegliere con cura le domande da farsi. Quindi non chiedeteci come prendiamo decisioni in MAG, ok? Non chiedeteci, oppure se volete chiedere ve lo raccontiamo, però forse è una domanda che non va al cuore della partita, forse. Oppure, e questa diciamo che è un po' legata a questa prima area, oggi di che cosa vogliamo parlare? Quali sono le forme e le modalità organizzative per l'autogestione collettiva? È molto importante farsi delle buone domande. La vostra rete è particolarmente ricca, particolarmente diversificata, complessa, eccetera, eccetera. Caspita, ci vuole una cura sopraffina nel creare dei buoni accordi e non prendere solo delle decisioni. E questo è importante, si possono fare tante buone domande in questa direzione. Guardiamo anche un esempio di una domanda invece di questo tipo. E se vi chiedeste, ma come si fa rispetto alla sostenibilità condivisa a, diciamo, ottimizzare i possibili ricavi che potrete avere e contenere i costi che inesorabilmente dovrete sostenere? Questa è una domanda. Non è detto che sia una buona domanda. Può anche esserlo, ma ha delle premesse implicite. Le premesse implicite di una domanda di questo tipo che normalmente tutti ci rivolgono. Allora, gente, le cose vanno male, anche quando vengono a fare l'ispezione del nostro bilancio, un po' che ce la rivolgono. Ma come si fa a migliorare i ricavi e contenere i costi? È una domanda, diciamo, non particolarmente generativa. Ecco, apro il capitolo. Di che cosa stiamo parlando adesso? Di imparare a fare domande generative. Cioè domande che anziché chiudere e ammosciare, aprono al nuovo, aprono alla scoperta di qualcosa che casomai non vedevo, e non sono fatte per confermarsi. Se uno fa domande per cercare conferme, perde un po' del tempo, eh? Le domande generative sono fatte per vedere le cose in un altro modo, per non dar per scontato che quello che hai visto tu è già tutto quello che c'è. Se cerchi una conferma, fai una domanda tendenziosa, che è un altro... Quindi oggi immagino che non farete domande tendenziose, farete domande davvero per vedere le cose in un altro modo, per andare alla scoperta di qualcos'altro. Quindi torniamo alla sostenibilità. Una domanda che di solito appunto può essere fatta a noi stessi e agli altri è: ma come facciamo quindi allora a valorizzare i ricavi e contenere i costi? Va bene, diciamo, può essere una domanda, ma forse c'è di meglio, se ad esempio abbandonassimo l'idea, e dopo ne parliamo un po', perché qua Mag e Arvaia hanno delle cose da dire, che la sostenibilità economica si ottiene perché i ricavi coprono i costi. Ma chi l'ha detto che necessariamente sia per forza e solo così, e così sarà nei secoli dei secoli? Amen. Ma chi l'ha detto? Diciamo che momentaneamente la maggioranza delle persone e delle imprese pensano che sia così. Non vuol dire che è inesorabilmente così per tutti e sempre. Semplicemente noi siamo nati in un'epoca in cui va di moda questa visione, ma non è detto che sia così. Possiamo anche scegliere delle altre strade, forse facendoci delle altre domande e abbandonando, anche se lo ammetto, io sono un cultore del bilancio, quindi a me piacciono i ricavi, i costi, mi piacciono, però li prendo e li metto al loro posto. Non sono loro i soggetti, vanno bene se rientrano in una logica che a noi piace e devono stare un po' al loro posto. Una domanda potrebbe essere: come possiamo creare sostenibilità economica, relazionale, ambientale al nostro progetto? È già diversa, ti svincola dall'idea che tu debba per forza pensare necessariamente a potenziare i ricavi e abbattere i costi. Non è mica sbagliato pensare così, se uno sta bene lo fa ed è contento, però se uno vuole può anche osare un pochino di più, Allora, questo per dirvi che se vi piace il gioco sarebbe questo. Vi va di provare a fare un po' di palestra per fare domande che non siano quelle che servono solo per avere informazioni, solo per avere conferme, solo per andare nella direzione del già conosciuto. Abbiamo ragione noi, abbiamo già pensato tutto, gli altri non capiscono niente perché non ci sostengono, eccetera, eccetera, eccetera, tutte queste robe qui. Se vi va, proviamo a tratteggiare qualche elemento che vi permette, anche una volta che noi siamo sul treno, di andare avanti finché volete a fare domande. Va bene? Vado avanti? Sì? Sì. Allora, vi do in regalo una mappa mentale che abbiamo utilizzato all'interno della nostra esperienza. Ve ne prendete una copia, è in bianco e nero. Io di solito insisto molto perché le persone portino i colori e le colorino, perché se noi vediamo a colori c'è un motivo. Però immagino che non abbiate i colori, ma coloratela. Ce li hai, grande. Ecco, coloratela, perché com'è? Grazie mille, grazie mille. Perché è molto importante. Allora, la mappa mentale è uno strumento per riuscire a vedere un po' meglio le cose, che non semplicemente in una logica sequenziale razionale, ma per poter un po' tenere insieme tanti aspetti, vedere i collegamenti, avere un po' di diciamo, maggiori stimoli. Tralasciamo tutta la parte destra, che era una cosa che avevamo fatto per noi. Se poi la volete sperimentare in una notte di luna piena, mondeggi, e volete vedere quello che abbiamo fatto prima di arrivare poi a focalizzarci sulle domande, abbiamo fatto quelle 4-5 cose lì, ma non le sto a riprendere. Mi fermo sul punto 7 e 8, che sono un po' le istruzioni per evitare che le nostre domande lavorino contro di noi, perché, come c'è scritto lì, io credo molto a questo, che nulla è più dannoso della risposta giusta a una domanda sbagliata. Quindi state attenti, se andate a trovare delle risposte giuste, non vuol dire che state facendo il vostro bene, dipende dalla domanda. Se ad esempio, faccio un esempio assurdo, vi doveste domandare, ma come faccio a competere in maniera un pochettino più efficace rispetto a sti cinesi che mi stanno rompendo le scatole e stanno conquistando tutte le aree dell'economia fiorentina? Troverete una risposta giusta, ma la domanda è sbagliata, capite? Quindi state attenti, perché avere risposte giuste non è sinonimo assolutamente di aver fatto un buon lavoro per voi. Avere risposte giuste ha senso se la domanda era giusta, perché se la domanda è sbagliata, la risposta giusta è un guaio colossale, la cosa peggiore che tu puoi fare. Quindi ponete attenzione alle domande. Ma come si fa qua dentro ad avere un po' più di boh, non so che cosa? Ecco, trovare risposte a domande sbagliate, risposte buone, sensate, giuste, è molto pericoloso, se non si fa attenzione alla domanda. Bene, allora, guardiamo qualche elemento che potrebbe esservi d'aiuto se avete voglia di diventare dei professionisti delle domande, così interagite in maniera interessante. Tenete presente che fare domande, il primo soggetto coinvolto siete voi, mica quello dall'altra parte. Cioè, impariamo a fare domande, e le domande, il primo soggetto con cui interagiamo siamo noi stessi. Poi anche gli altri, certo. Però una buona domanda mette prima di tutto in discussione noi, mica gli esperti. Noi stessi e gli altri. Ok. Allora, come creare domande generative? Ci sono mille modalità, queste possono essere possibilità interessanti, cioè se siete degli sperimentatori e vi va di provare, vedere cosa succede, provate ad esempio a fare domande, appunto non per cercare di capire se siete dalla parte giusta o se l'avete già pensata bene, eccetera, ma per smontare condizionamenti limitanti. Un'ottima domanda è smontare condizionamenti limitanti. Pensate che un condizionamento limitante è che gira voce che se tu vuoi avere dei soldi e un reddito devi lavorare. È un condizionamento fortemente limitante che non ti permette di volare alto. Esatto. Puoi fare delle domande più profonde. Falle. Quanti condizionamenti limitanti abbiamo? Tantissimi. Il problema è che ce li abbiamo tutti e quindi non ce ne accorgiamo, solo per il fatto che li condividiamo, però si può fare qualcosa, eh? Quindi provare a smontare dei condizionamenti limitanti e mettere in discussione le paure. Se volete fare delle belle domande, ma pensate a che cosa, di che cosa avete paura. Fate le domande su quello, provate a sondare quello. No, adesso noi vi diciamo la nostra esperienza, vi racconteremo le nostre paure, eccetera, eccetera. Però guardate un po' da dove partite. Oppure comprendere a fondo i bisogni in campo. Ma qua Mondeggi, ma quali sono i bisogni reali in campo? E qua in campo è anche bello perché è proprio... Quali sono? Abbiamo un'idea chiara dei bisogni reali in campo? Tutti. Facciamo una bella mappa di tutti i reali bisogni in campo e ci facciamo delle domande a partire da lì. Capire i punti di vista e le opinioni altrui. Ma possiamo imparare a fare delle domande davvero per ascoltare e per capire cosa pensa quell'esperienza, quella persona totalmente diversa da me. Anzi, mi sta anche un po' su a dire la verità. Gli faccio proprio una domanda onesta per capirlo. Per capirlo. Oppure ricercare nuove modalità più efficaci e gratificanti. Va bene, fino adesso abbiamo sempre fatto così. Proviamo a fare una domanda che apra a cose mai fatte prima, che siano naturalmente non peggiori, che secondo noi, secondo me, potrebbero essere più gratificanti. Oh, questo è bellissima, sfidare le cose ovvie. Sfidare le cose. Ve ne dico un'altra, che se volete del denaro dovete andarlo a prendere in banca. Ma dove è scritto? È una cosa ovvia, Però vi dico che su Alfa Centauri ridono di noi. Perché là che non ce le hanno le banche, hanno tutto un altro sistema. E là raccontano le noi raccontiamo sui carabinieri, loro raccontano le barzellette sugli abitanti della Terra. Quali sono le cose ovvie che continuiamo a credere? Potrebbe essere interessante farsi delle domande. Tenete presente che è un viaggio di andata che cambia le cose se prendete questo, però vi posso garantire che si rischia un pochino, però è piacevole. Andare alla scoperta di nuove strade, va bene. Quindi questa sarebbe un po' l'idea su cui muoversi. Vi va adesso, fra 5 minuti, di provare a fare qualche domandina che secondo voi va in questa direzione. Quindi non tanto informativa, dopo un po' di informazione vediamo. Però cos'è che potrebbe davvero fare la differenza andando in questa direzione? Dopo potreste provarci. Qua, per evitare che uno dica, non so neanche dove partire, noi ci siamo dati, spulciando un po' avanti e indietro, c'è un po' di letteratura su questa roba qua, non è farina del nostro sacco. Abbiamo preso da tante parti. Perché? Perché l'idea che le domande siano molto potenti è abbastanza condiviso. Chi fa le domande ha il pallino in mano, non è chi dà le risposte che ha il pallino in mano. Allora abbiamo fatto così, qualche esempio, ma tipo come si potrebbe costruire una domanda come esempio, come stimolo. Allora, come potremmo agire affinché, e poi inserire un sogno che desideriamo realizzare? Noi abbiamo provato a usare una cosa di questo tipo, ma proprio un sogno, non accontentarsi dell'ordinaria amministrazione. Qual è il sogno che la mattina ti fa venire voglia di alzarti e fare quello che fai? Prova a tirarlo fuori e metterlo lì. Come potremmo fare? E se non fosse più ovvio che, e mettete una bella cosa ovvia che sentite che non è nelle vostre corde, come potremmo fare? Se non fosse più ovvio che, come potremmo fare? E se non avessimo più paura che? E cosa potremmo fare di diverso per non ripetere l'errore di? È importantissimo. Noi oggi appunto cercheremo di raccontarvi tanti errori belli, provare a lavorare sugli errori è molto interessante. Spero che ne facciate tutti almeno 3-4 al giorno, no? Che è la razione di sostentamento minima per un essere umano. 3-4 ore al giorno, se non li fai, come bere non so quanti litri, 2-3 litri d'acqua, altrettanto, 3-4 ore al giorno. E lavorare su quelli. E quali sono le grandi opportunità, applicare la creatività, eccetera, eccetera, basta, mi fermo. E ora farei in questo modo qua. Alcune domande ve le regaliamo noi. Quindi le abbiamo preparate, ve le lasciamo, ma se qualcuno di voi ha voglia, post-it grande o piccolo. La sintesi però è una qualità fondamentale, e anche scrivere in stampatello, perché sennò gli altri non riescono a leggere la nostra scrittura. Allora, se proprio siete un pochettino incontinenti, non verbali, ma in questo caso prendete quello grande, altrimenti se riuscite a contenervi in quello medio, perché questo non è piccolo, prendete quello piccolo, così dopo potete eventualmente individuare una domanda interessante che raccoglieremo e terrete nel vostro serbatoio delle domande importanti. Oggi probabilmente non riusciremo a rispondere a tutto, ma una volta che hai creato la domanda, poi non la molli. Quindi qua c'è la domanda un po' lunga, là c'è la domanda più sintetica, vi consiglierei di prenderlo il post-it, o il piccolo, facciamoli andare tutti e due nella stessa direzione, così scegliete se volete il piccolo, il grande o il medio. Noi intanto ve ne regaliamo. Ve ne regaliamo 3 per un'area e 3 per un'altra area. Vediamo anche, una volta fatta la domanda, va poi migliorata. Non è che la domanda viene fuori così e rimane così. La domanda può essere migliorata dalle altre persone. Queste sono quelle che vi regaliamo noi. Allora, vediamo un po'. Partiamo da quest'area qui. Abbiamo pensato a queste tre domande. La prima potrebbe essere: in che modo e a quali condizioni il potere può essere realmente condiviso? In che modo e a quali condizioni il potere può essere realmente condiviso? Potrebbe essere una domanda che vi aiuta nella vostra organizzazione. È una domanda, può darsi che vi aiuti, può darsi di no, tanto la domanda male non fa. In che modo e a quali condizioni il potere può essere realmente condiviso? Se volete la potete anche girare appunto a Maxei o per sentire cosa hanno loro da dire, oppure ve la tenete e ci lavorate sopra. È una possibile domanda. Oppure, che relazione vediamo fra la costruzione di rapporti di fiducia fra persone e organizzazioni e il raggiungimento dei nostri obiettivi economici, sociali e ambientali? Quindi che relazione vediamo? Ci sono realtà dove... non c'è... toccare. Ah, benissimo, sì. Per Bacco. Però questi sono costituzioni... No, questi non sono incollati. No, questi... Aspetta, però prima... Dove vuoi attaccare? Ah, quello è buonissimo. Quello è buonissimo. Ok. Dove vuoi attaccare? Ok. Ok. Possiamo adesso sì, cerco di attaccarle. Con quello lì si possiamo attaccare anche al muro, forse, perché è uno scotch delicato. Possiamo attaccarle anche qua. Ah, guarda, c'è. Mamma mia, qua si vede che esperienza. Allora, non prendiamo troppo posto perché dopo qua ci mettiamo le vostre anche. Quindi, una e una due l'ho già letta, questa e l'altra non ho idea dello sia adesso. Allora, non vorrei tenere troppo posto, quindi io questa quasi la lascio per le vostre. Secondo me non rovina assolutamente. No, un altro modo buono, sai cos'è, Luca? L'hanno fatto loro, la fanno passare. Quindi tu vai avanti. Ah, ok, va bene, la fanno passare e quindi non stiamo a occupare lo spazio per le vostre domande. Poi tanto gliene lascio. Ah, sì. Ok, quindi le facciamo girare. E la terza domanda che vi regaliamo è... Questa è la prima domanda che le facciamo quando... E qualcuno viene a chiederci di costruire un piano d'impresa rispetto alla forma organizzativa. Quali sono i nostri valori irrinunciabili a cui la nostra forma organizzativa occorre sia fedele? Cioè, a cosa dobbiamo rimanere ancorati? Ce lo possiamo dire? Perché forse facendo questo evitiamo che ognuno nella sua testa abbia delle cose che sa solo lui, e quindi dopo è difficile che l'altra persona possa trovare un incontro. E questa è la terza che vi regaliamo. Poi ve ne regaliamo altre tre sull'altro tema: sostenibilità economica e finanziaria. Oh, questo mi piace. Quali sono gli strumenti e le competenze economiche che riteniamo siano da condividere? Come fare? In pratica, se i numeri li capisce solo una persona o cinque persone, è una buona situazione rispetto a un gruppo più ampio? Quali sono le competenze e gli strumenti economici che riteniamo siano da condividere e come si fa a condividerli? Può essere una domanda interessante. La passiamo, regalata. Poi, anche questa nei gruppi è sempre frizzante. Ma chi si assume il rischio di impresa? E a che livello è condiviso e come? Cioè, se le cose vanno male, come facciamo a non essere schiacciati da un possibile fallimento economico, dico? Se le cose vanno male, come facciamo? Ci accordiamo fin da ora? O semplicemente non diciamo niente e poi quando le cose vanno male vedremo? Non è una cattiva domanda, è una domanda che apre abbastanza, un confronto non superficiale. Oppure, è ancora in quest'area qua, cosa possiamo offrire e cosa possiamo chiedere in modo chiaro, ai cittadini, alle associazioni, al territorio, perché Mondeggi sia un bene comune? Cosa portiamo noi? Cosa chiediamo noi per evitare che quello che noi offriamo non sia sufficientemente chiaro, ma nemmeno quello che noi chiediamo? Potrebbe essere una domanda utile, forse. Queste sono le domande che noi abbiamo immaginato, che potrebbero forse essere utili. Adesso, se ci state e se le cose dette sono sufficientemente chiare, possiamo prenderci 5 minuti di silenzio totale, perché il silenzio è il più grande alleato in queste situazioni, per provare a scrivere la nostra domanda generativa, che può toccare quest'area qui, delle forme e modalità organizzative per l'autogestione collettiva, per la sostenibilità economica e finanziaria, o qualunque altra cosa voi sentite che possa essere una domanda che genera qualcosa di importante, che apre delle possibilità, insomma, che vada nella direzione di quanto è scritto qua nel secondo riquadro numero 7. Se vi va, ci rivediamo fra 5 minuti, va bene? Scrivetela in stampatello come se la dovesse leggere qualcun altro. Vi proporremo però di leggerla e di lasciarla qui, di modo che alla fine della riunione ve le tenete tutte e poi ci farete quello che vorrete. Il consiglio è: vogliate bene alle vostre domande. Ok, vi dico qualcosa io fra 5 minuti. Così partiamo da te. E vuoi leggere forte la tua domanda, così tutti l'ascoltiamo? Sì, io però non so se ho capito bene. Fa lo stesso. Una domanda per ogni area. Va benissimo, quello che hai fatto va bene. Allora, riguardo alle modalità organizzative, sì? Mi è venuta una domanda abbastanza spontanea. Vai. Cosa succede se mi ammalo e mi assento per una serie di mesi dalle assemblee, dalle parti in cui si decide, dalle sessioni? Perfetto. Ma che cosa succede? E se? Che non tenete presente che quando iniziate le domande con e se, è molto interessante, e se, e incominciate a immaginare uno scenario, che cosa? Ecco, e se? E se mi ammalo? E se mi ammalo? Così, è una domanda esplorativa. Ok? Dammi pure. Quasi quasi provo a metterle qui. Dai, qui se non ci stanno dopo le passerò lì, così avete... D'accordo. Tenete anche presente, non so se lì c'è scritto, che c'è una bella differenza quando iniziate la domanda con come o con perché. Sono due domande molto diverse. Di solito come apre di sicuro, perché non è detto, va a scavare e può essere particolarmente impegnativa. Ok, vai pure. E l'altra invece, sì, sì, sì. Sì. Economico-finanziaria, mi sono chiesta come e quando capisco se il mio piano, il nostro piano sta funzionando. Ok, benissimo. Come e quando capisco se il mio e il nostro piano sta funzionando? Ok, domanda che può essere interessante. Continuiamo. Francesco, te hai prodotto qualche buona domanda? Buona no. Qualche domanda? Vai. Come primaria, come trovare le strade effettive, sì, concrete, sì, per esercitare condivisione di potere, sì, e anche condivisione di competenze, che io ritengo essere due livelli, due livelli, okay, molto legati. Benissimo, dammi pure. Capite che questo gioco termina potendo lavorare sulle domande, ma poi anche scegliendo a quale domande rispondere, chiaramente. Si raccolgono tante domande, perché poi si sceglie, partiamo da questa. Vai pure. Quali assiomi, cioè verità universalmente accettate, dobbiamo superare per ottenere una sostenibilità condivisa? Punto. Bene. Punto interrogativo. Interrogativo. Benissimo. Ok. Assiomi. Bene. Allora andiamo avanti. Questo la mettevo qua. Sì. Bene. Continuiamo a raccogliere. Hai qualche domanda da... Sì, a me è venuta l'ultima, però mi sarei molto... Forse l'ho scritta male. Ma lo stesso. Io ho scritto... cioè, può essere applicato. Sì. Come conciliare il lavoro, il mio lavoro, il lavoro di cura, eccetera, eccetera, con il mio impegno nella comunità? Cioè, è molto personale, ma il senso voleva essere... Sì. Possiamo trovare delle momenti di riflessione comune, certo, in modo che tutti possano trovare delle forme per poter dare il proprio contributo? Ecco, volevo essere più questo. Chiaro. Il senso, l'ho scritta male. Che apre, una pista di lavoro non male. Bene. Andiamo avanti. La mia domanda è come agire per far incontrare il percorso fra soggetti associativi, sì, questo, con quello dell'assemblea di persone del comitato, okay, di Mondeggio. Ok, me la vuoi dare? Che la sì, prendo. Grazie. Quindi rimaniamo qui nelle modalità organizzative. D'accordo, andiamo avanti. Chi ha qualche altra domanda da offrire? Allora, ne avevo fatte tre, ma ne faccio due. Va bene. Allora, come fare in modo che ognuno, ognuna contribuisca in maniera significativa al bene comune? Ok, d'accordo. Diciamo che alcune possono essere messe da una parte o dall'altra, l'importante è metterle qui. E poi una domanda che potrebbe essere tendenziosa, ma vorrebbe aprire, sì, è come superare la sfiducia nelle istituzioni? Ok, diciamo, questa ha chiaramente una premessa implicita. Però la si legge. No, nelle o delle? Nelle. Tutte e due, a dire la verità. Nelle e delle. Nelle e delle. Due versi. Nelle e due. Migliorata. Ok. Bene. Ma mettere in vista le premesse implicite non è poco. Vuoi leggerla tu anche? Sì. Io mi sono chiesto come si potrebbe fare per ampliare o creare nuove forme di partecipazione collettiva durante la fase transitoria, quindi durante dei lavori e così. Ok. E collegato a questo, quale aiuto si può chiedere alla cittadinanza e al comitato? Per creare un nuovo luogo, un nuovo presidio, diciamo, assembleare collettivo, un luogo fisico. Ok, va bene. Che supporti Chiaro. Questo percorso. Chiaro. D'accordo. Perfetto. Grazie. Prego. Io giuro non ho copiato, ma sono molto simile alle loro. Va bene. Io ho scritto come riuscire a essere più attrattivi, tra virgolette. Sì. Sia all'interno delle nostre realtà, sì, che verso l'esterno, perché a queste riunioni sono sempre soli. Chiaro, chiaro. Bene. Prego. Allora, cosa potremmo fare di diverso per non ripetere l'errore di avere dinamiche di potere tossiche? Bene. E poi anche cosa faremmo di diverso se non avessimo paura del turnover di persone e progetti? Ok. Un'altra. Sì, ne ho fatte tre. Non si ferma. Le mie sono corte, però. Corte ma dense. Come si possono coordinare attività più ricche con attività meno ricche in modo da mantenere la felicità per tutti i soggetti interessati? E ricche intendi economicamente, cioè che muovono più risorse? Allora, potrebbe essere economico ma anche relazionale. Ok. Chi lo sa? Diciamo più dense. Sì, più dense. Sì. E quello è un po'. D'accordo. Va bene. Ecco, importante è capire le domande. Se ascoltiamo una domanda che non comprendiamo, è bene chiedere le informazioni che ci servono per comprenderla. Prego. Come gli accordi, formali o informali che siano, possono includere le responsabilità condivise tra le persone? Ok. Le persone e gli enti. D'accordo. Bene. Prego. Io sto invecchiando, non sono riuscito ad andare oltre la dimensione intima e non l'ho scritta, ma comunque la domanda è: cosa mi spinge a venire a Mondeggi? C'è una domandina. Se la vuoi scrivere, non è per nulla banale. Visto che tutte le volte faccio 100 km andare. È una buona domanda. È una buona domanda. Cos'è che ci spinge? Non fa la differenza. Potrebbe essere la risposta a quella che ha chiesto lui. Fa la differenza. Attacchiamola. La rendo plurale, cosa ci sì, spinge? Sì. Partire da quello di solito aiuta tanto. Ok, l'attacchiamo. Ma poi non è quello, forse mancino. Ok, cosa no, ci spinge? No. Teniamo la lì. Gli ambienti alternativi scrive con la sinistra, gli ambienti sai cosa spende. Grazie mille, prego. Io ho fatto scheda bianca. Scheda bianca. Bellissimo. È sempre apprezzato perché dà grande leggerezza, no? Non occupa troppo spazio. Grazie. Allora, io ho scritto una cosa, probabilmente è un po' una cosa, non so, via che ferma. Ho scritto come faremmo, prendendo sì. lo spunto di qua, sì, ho preso gli spunti sì, da sì, sì, certo. Come faremmo, cosa faremmo di diverso se non avessimo più paura che se non accettassimo il percorso della città metropolitana e portare avanti una forza collettiva ed economica. Certo, ma è una buona domanda. Quando si fanno le proposte, una delle proposte è, guardate, non accettate la mia proposta, perché può anche essere interessante prenderla in considerazione, ma alla fine ritenere che sia meglio di no. Cioè è uno scenario, quello di non seguire necessariamente quella strada che io in questo momento sto anche proponendo. E se invece non andiamo di lì, che cosa succede? È sempre una buona domanda. Ora magari lo dovrei riprecisare perché non è... Va bene, ci sarà una versione 2, diciamo. No, solo grammaticalmente. Ah, okay. Poi c'è, poi... insomma, ne ho fatto un'altra molto... secondo me anche banale. Come potremmo agire affinché le persone, una volta entrate nella comunità, partecipino attivamente alla vita collettiva? Ok, ok. Alla vita della comunità, ovviamente. Grazie mille. Continuiamo il giro. Sì. Manca un pezzetto di domanda, ma è implicito forse. Va bene. Data l'apertura del capitolo metropolitano, sì. quali strumenti nuovi servono per monitorare che il bene comune non torni di proprietà? Ok, benissimo. Quali strumenti di monitoraggio ci servono? Ok. Grazie. Andiamo avanti. Là dietro? Niente. Prego. Come si integrano progetti diversi in modo che si avvantaggino gli uni degli altri? Ok. Come si integrano? Ok. E come attrarre altre realtà e persone senza perdere le motivazioni originali? D'accordo. Grazie. Ce ne sono ancora qui? Ce n'è una. Sì. Che bello colorato davvero, eh? Come potremmo creare una realtà in grado di superare la dicotomia tra impresa agricola e informalità? E questa è una domanda interessante. Avete sentito in fondo? Sì. Ok. E qui avete domande da offrire? Cioè, io non ho una domanda. No, tranquilla. Allora, tra l'altro, nel titolo, come potremmo agire affinché Mondeggi si riempia di contadini e contadini che abbiano voglia di condividere il mestiere, la convivenza sulla debita della gestione? Ok, teniamola, no? Ok, bene. Allora, ce ne sono ancora. La puoi rileggere? La facciamo ripetere da... A destra. La vogliono. Come potremmo agire affinché Mondeggi si riempie di contadine e contadini che abbiano voglia di condividere il mestiere e la convivenza secondo i criteri dell'autogestione? Ok, allora Come prosegue il gioco? Non lo facciamo ora, ma adesso abbiamo raccolto tante domande con l'intenzione di aprire nuove possibilità, di andare sotto alle premesse implicite, di andare oltre le paure e vedere cosa possiamo prendere in considerazione. È un approccio esplorativo, andiamo a vedere. Stasera, domani sera volete trovarvi e cominciare un altro giorno a individuare quali sentite siano, non è una gara tra domande, è quali sentite sia quella domanda, quelle domande da cui avreste piacere di iniziare a rispondere, casomai contornate anche di persone o realtà che che pensate potrebbero essere interessanti, non perché vi danno ragione, ma perché hanno un'esperienza che potrebbe arricchire il vostro confronto. Ne potreste scegliere alcune e lavorare su quelle perché sentite che quelle fanno la differenza. Detto questo, se su questo capitolo, che forse ha portato via anche un po' tanto tempo, più del previsto, non ci sono così ulteriori osservazioni, io passerei la fase 2, cioè voi avete adesso fatto un po' di palestra sulle domande, se volete potremmo provare a condividere un po' di esperienze che prendono spunto sia da queste domande che dalle cose che sentiamo potrebbero essere forse utili condividere oggi.